posizione, dire se c'è qualcuno. Attenzione, canale 10, canale 10, c'è qualcuno, K. Forse c'è più roba, se non c'è stato il produttore di ieri anche, non verrà nulla, dopo che vabbè, siamo usciti dal locale, siamo usciti a farci un giro al produttore, se verrà tutto canto un sugio. Vabbè, d'estate produttore, se lo sai che c'è finimondo, d'inverno, un po' di fuoco. D'estate è il top, però d'inverno muore, dovrebbero fare qualcosa per attivare anche il periodo invernale. Buonasera. Buonasera, che a lei, io sono rientrato comunque già. Capo poco, sei rientrato, sì, ma però, cazzo. Ehi, gliela dico che sono rientrato. Vabbè, a parte che adesso la mattina sto facendo dei lavori, quindi almeno mi faccio un po' di soldi. Ok, salutoni anche Antonio Bombolo. Sì, e cosa stai facendo lì? Sto sistemando la villa, capito? In pratica sono io con quel ragazzo che vende, come si chiama, il hai visto gli ombrelli lì davanti a questa porta? Io ho capito, adesso che pitturato. Pitturando e sistemando un po' tutto. Ieri abbiamo fatto la cabina armadio, cazzo, dentro questa cabina armadio c'era una cassaforte dentro, dietro, cazzo. Ha detto, cos'è questa roba? C'è una cassaforte, mi ha detto, la cassaforte. E come facevate ad aprirla? C'è tutto quanto con questa legna qua, gli ho detto, manco moto l'avrebbe trovata. Mica la lasci in vista, la devi nascondere, no? Avanti, Antonio, poi fa girare. Kappa, buonasera. Cavolavati senza sindino, che oh, sempre perfetta, sempre al top. Kappa. E te che ci dici, roba di batturati, ha pigliato l'antenna. Sì, anche questa ne ha preso colpi, cioè no, il vento più che altro, ci vanno bene come antenne. Adesso mi sta prendendo anche l'aniere, questa antenna qui, perché è leggera e non dà nessun problema, già registra. Avanti Gianni. E che ci vuole? Una propagazione che c'è, sentite. E vabbè, la mia è pesante, ma c'ha i tiranti. E quindi non si può usare neanche di un millimetro. Se si muove lo stilo centrale un po', ma non è come la Game Master che si bigia venduti. Oh, questa che abbiamo noi, cavolo eccezionale. Oh, anche la tua, cosa li fate? Forse diventerò vecchio e sarà ancora in chive. Ma non vi credito. Marco c'è la piazzata da almeno 7 anni sopra col tetto. Cosa ce l'ha di più di 10 anni? Che n'ha più toccato? No, a me da quando mi è successo quelle che mi è venuto il fulmine, mi ha crepato la carica interna, non ho antenne pesanti così, non le penso più, non me ne frega più niente. Non devo caricare una, anzi, la verità l'ho fusa la Mantova, io con linea da 1000, la Mantova turbo, quindi evidentemente era la seconda serie fatta male, perché io con la Mantova 5, quando usavo il lineare quando c'era Mario Manse, manco il cappello li coricava con la Mantova 5. E la Mantova 5 è molto meglio della Mantova turbo, io l'ho avuta la Mantova 5, andava da Dio, potevo attaccare che su di lui, poi l'avevo messo il cavo centrale più grosso e resisteva ancora più vasto. A me mi è proprio crepato il filo del PL, mi è spaccato in due, figurati. E quindi ho dovuto aprirla, sistemarla e poi cambiare cavetto, ripiazzarla di nuovo, eccetera, eccetera, gli altri ricordi. E quindi poi il fumo mi ha dato la benedizione, obiettivi. Ma ha preso in pieno la bobina, poi anche i due televisori. Allora ci hanno messo 130 euro solo di televisore, cazzo. Ne ho comprato due, sono 260. Però l'ha bruciato. Me l'ha bruciato, sì, due televisori mi ha bruciato. Anzi, uno me l'ha preso in pieno e gli ha fatto un buco. E invece l'altro sono stato fortunato che non si è fatto niente. Solo un diodo, gli ho cambiato i quattro diodi dell'alimentatore. E mi sono accorto che c'era un altro video bruciato di quelli piccolini SMB. Allora mi sono fatto una ricerca per vedere quanto costava la schiena, costa 32,40 euro, aiuto, uno di questi giorni me l'ha messo a posto quel televisore, è un LG nuovo, non c'ha niente, ma con graffio. Quello invece ieri mi hanno regalato un 40 pollici della Samsung, mi hanno regalato, ma bello, Smart TV, e adesso devo solamente piazzarmelo. Di una giorno lo piazzo qua in camera mia e quello che c'ho me lo conservo dentro la scatola, così ce l'ho di riserva. Poi quello bianco, adesso vediamo un po', devo chiedere a mia nipote di ordinarmi l'alimentatore, così vediamo di sistemare anche quello. Vabbè, avanti Lu. Luca deve essere sta preparato per l'uscita. Ma comunque, caso tu cosa pensi, che sia stata l'antenna a tirare fuori? Abbiato in pieno, abbigliato. Prima ci è passata l'antenna prima del palazzo mio, quello più basso. L'antenna della TV, infatti a quello gli ha bruciato il televisore lo stesso. Il salvavita come ha fatto a me. Anche se la vita mi è partita, ho fatto una fumata, ho chiamato immediatamente a Daniele. Daniele, vieni veloce, a casa, ha detto che sta fumando salvavita qua, gli ho detto. È entrato il fulmine nella presa elettrica e la antenna. Poi è saltato anche il coso giù, è saltato il termico, quello della cabina. Invece il termico che c'è nelle scale, quello non è stato per niente. Poi ci ha avuto tratto la gatto, perché si era intasato tutto, allora ha avuto andare là fuori con la parete, buttarci tutta l'acqua che ci avevo prima che facesse danno. Nel travasso l'ho buttata sotto al tetto. Immaginati un casino quel giorno, poi c'era Simona impaurita, eccetera, eccetera, e è stato così male, c'era l'agitazione del cuore, mi ha misurato a 120. Ma magari è caduto lì il fulmine, perché in alto e l'antenna c'entrava poco. Sì, ma temporale non era qua stanza, il bello è quello, temporale era Ussi, era. Io ho sentito il tono che era dalla parte di Ussi, quindi in pratica ho preso il fulmine orizzontale in pieno. È passato, del passaggio ti ha preso. E infatti, mi ha spaccato il cavo della TV in due, figurati, e mi ha preso la TV in pieno, tutti e due ho sentito solamente io il zoccolo del PL, come è scaricato in terra nel pavimento qui, e basta, anche in camera mia. Ma non pensavo che l'ultimo episodio che c'era Simona in camera sua, cazzo, un fumo, cazzo, si poteva manco entrare, sembrava quello che aveva acceso un petardo. Interessante che il risotto da avanti, mo. Cappa, boh, è una fatalità, è stata. Da di anni non è mai successo niente, però. Io infatti quando non ci sono a casa mi sa che il PL è staccato. Non si sa mai, perché ho paura che chissà cosa sul tetto, non è che. Comunque. Con questa già mi sto trovando molto bene, mi sto trovando. Non mi ha mai dato un problema. La cosa la. Come si chiama? Ma l'altra, la ringo qualche grado a capo me l'ha dato. Ma questa no. Ma le ringo sono difettose, entra acqua, lo sanno tutti. Ho letto mille recensioni sulla ringo, tutti dicono che è difettosa, che entra acqua, che se la vulcanizzi bene ti entra con lo stesso. Sì, c'è proprio l'alluminio, è bastardo. Ma no, queste già vanno bene, già. C'è gente che ce l'ha 10 anni e non ne ha farà da più. Belle erano le ringo di una volta, quelle tutte fatte in rame, quelle sì che duravano. Diventavano verdi, però duravano anche 10-15 anni, belle tranquille, so perfetto. Figurati, poi l'altro tipo di antenna che durava parecchio era la Super Vegibus e la Firenze 2, non ce n'era come quelle antenne. Peccato, Brigitte la stava ripiangendo la Firenze 2 qua, se l'avrebbero ricostruita, era pesante come antenna, però un treno era, un treno, c'aveva un mio bello grosso, non come quelle, come la Mantova. La bobina grossa lo stesso all'interno e poi regolava la stazione da sotto nella rotellina che c'era. E funzionava in 27, addirittura in VHF. E in 45 metri pure poteva andare. Sì, c'era la Firenze 2, la Starduster. Viva, forse la più vecchia. Tanti anni, io mi ricordo che ero un ragazzo quando c'era su Parletto, esiste tanti anni, e all'epoca chi aveva quella era era bravissimo, cioè era una grande antenna chi aveva quella. Cosa c'è Gabri? La Superlepo già funzionava lo stesso bene. Ce l'aveva, come si dice, quel CB che abitava in via Principessa Yolanda, che adesso mi viene in mente il nome. E non gli è mai successo niente a quell'antenna, lui, qualsiasi vento arrivasse o pioggia o non gli è mai successo nulla. Poi aveva cambiato casa, la casa del padre quando si è sposato se n'è andato, quindi se l'aveva ripiazzato da un'altra parte, ma è entrato mi sembra 3-4 mesi, non di più, poi non è più entrato a bracchio. Evidentemente lo sta facendo altro. Dopo, c'era solo Gianni mi sa la Superlemma, è un vecchio progetto che molta gente ce l'ha avuta per tantissimi anni. No, ce ne sono, se ti fai un giro ce ne sono parecchie antenne ai soprattetti, specialmente nella zona di Pudizzetta, ce ne sono tante di antenne che sono in disuso, capito? In disuso nel senso, soprattutto lì abbandonate, anche al centro storico addirittura ce ne sono due. Una è di coso, di Malcetto. Ma dove? E in coso, parallelo a... come si chiama quella via? Dove veniva a fare? In quella via lì. Abita Malcetto. Poi c'era anche coso, l'antenna, Padre Francesco, ce l'ha, via San Donato. Ah sì, l'avevo vista quell'antenna, sono stato vecchio. Sì, sì. È ancora in piedi, ancora anda. E rimane parallelo a coso vicco, però rimane più giù della, di quello che vende la Fainé. Come si dice? Metafora, diciamo. Di coso vicco parallelo. Bella, c'è più di 30 anni sopra il tetto. Chissà, è sempre in piedi, chissà se funziona. Dovrebbe funzionare, Maria se ne ha tre di Mantova, c'ha due Mantova 5 e una Mantova 1, c'ha. Poi si sono raccolate, no, da David CB, che figurati. E non l'ha mai attaccato perché ogni tanto gliene parlavano. Già lo so. Ma quella secondo me se così come... No, non aveva subito, grazie a Dio. Che avevano in pratica tagliato i tiranti e paro e gli hanno smollato i bulloni, capito? Sono saliti sopra il giorno di Natale. E quando è arrivato il vento si è abbigendito, è stato chiamato i pompieri, ha fatto attaccare tutti i pompieri. I radiali li hanno trattati a coso, gli hanno toccato il palo con la mola e poi siccome non riuscivano a staccare i radiali li hanno tagliati a mano. Cappa. Già sono stati vecchio, ho visto anche una Mantova, uno ho visto. In quella zona già ci sono, non ne hai mai cavato. Sono sempre in piedi, sono. Costate tutto che tanti anni, Ce n'è una che è corso Trinità lì entrando in quella viuzza. Ce n'è una che si vede sempre. Già lo so. Mi da mia regalata. La manta da cosa, la parito tutti. Già la vedi l'antenna lì alla Butibuddia si vede, la prima che c'è. C'è lo stile a metà, c'è, ma già si vede. Adesso da due ne fa una, letto. Capito? Di cambiare solo la base, mettere la base della Mantova 5 e... perché il suo stile mio era nuovo fermante, capito? Non ne ha mai farata, non ne va. La base ce l'ho in te, di sotto è nuova, quindi ha fatto che fare l'incrocio e pensare a quella. A me non si mette a posto la Mantova turbo, non è che ci vogliamo togliere il cappuccio di plastica, cercare il rame rigido, il filo elettrico rigido e rifare la bobina alla stessa misura. Capo. Comunque, andrà bene. Ma vediamo quanto dura chissà, Devo comprare pure una cara, devo comprare, non si sa mai, cazzo, che devo salire su. Una scala che sia sicura e via. E lì è una scala come si deve, che abbia il basamento largo, capito? Di quelle che si piegano, però che la puoi tirare su, capito? C'è proprio il basamento largo, anche perché devi appoggiare la ringhiera per salire sopra, poi devi aprire quella specie di finestrella che c'è, dove uscivo in testa io ogni volta che ci andavo, lì, cazzo, mi veniva a cagare là addosso, cioè salire un conto, accenderne un altro, se li da solo, capito? Perché non ci arrivavo con i piedi a toccare la scala, perché toccava la faccia sopra il tetto. Scappa, per un po' di anni già me l'ho fatto per un po' di anni, ma che l'ho... Gabri, cosa hai fatto? Che... tutto nuovo, capo nuovo, biele nuove, tutto nuovo. Per un po' di anni me l'avrà fa. E a voglia. La baracca 155 sto usando. A voglia. No, io ce l'ho leggito, c'è tutto lì. Sto usando, l'ho comprato nuovo, 15 metri. L'avevo comprato nuovo. E poi le 158 per la volta, e basta. Buttateci baracchini. Buonasera. Ciao Marco, ben sentito, sono tu. Sì, ti stavo dicendo l'altra la tua che c'era. Se mi ricordo male. Bombetta! Sì, anche tu Luca, ciao a tutti, da. Sono arrivato adesso, mi stavo pigliando il caffè in cucina e miracolosamente ho sentito delle voci al baracchino. Oh Marco, ti volevo mandare un messaggio, me ne dimenticavo, sto dico adesso che sei qua, si può cambiare il colore del display di questo apparato? No, negativo, è monocromatico Luca. No vabbè, pazienza, avrei voluto tipo un blu bello, cazzo. Allora, sai qual è? Un apparecchio molto simile di aspetto che cambia il colore display. Allora, l'Alinco DX10. Alinco DX10 è leggermente più piccolo, però identico l'aspetto. Quello sì, quello cambia il colore del display. Io vabbè, oggi comprerò nulla, giusto per sapere. Comunque ha molte funzioni che io. Rosso, vabbè. Ascolta, ecco il ricevitore, hai cavato piedi, perché c'ha tante di quelle cose da impostare, che vabbè, a cosa gliele avevo impostate io, gliele avevo già impostate io le cose base, a meno che non l'avesse resettato. Cioè, ti trovi bene o no con quel ricevitore? Beh, parcheggiato, non so usare, se lo sistemi, perché non lo so. Ti diamo, sentito anche il gabinetto tirando, scusate, sì, si può dare un'occhiata, però se non ti piace la filosofia di tipo di scanner, Luca, dovresti scegliere altro, e quello te lo vendi e te ne pigli un altro, che sia tipo ricevitore come controlli. Riprendi, Antonio. Antonello? Sì, qua sono qua, c'è problema. Allora, come ti va? Ciao, mi sentite con questo? Tu la voglia. Mi ha un bel po' fermo. Ha una modulazione potentissima come potenza di modulazione, però è più barattolosa. Aspetta che la abbasso. Ma un po' meglio? No, alza un po'. Com'è ora? Ma meglio? Allora, così per città è ottimale. Lascio così. Invece Pomponio, è inutile dirlo, è saturo, tanto per cambiare. Cazzo, io non credo che sono saturo. Lo sai che dopo un po' si solleva da solo questo. E tu dal microfono normale. Adesso sono sceso a 20. Eia. Beh, signori, la benedizione ve l'ho data. Adesso me ne posso tornare in camera. Buona serata a tutti, buon proseguimento e ci sentiamo quando capita. Ciao Marco! Ciao Marco, ciao, ci sentiamo. Ehi Marco, quando sei libero poi mi sapere, ma ci vediamo, te lo lascio, lo controllo. Così poi magari, una volta che ce l'ho io, mi spiego i passaggi che devo fare. Va bene, avanti, Popo. Ehi, ciao Marco, ci sentiamo, sta bene. Buono, guaretti, buon tutto. Ok, ripigliate la Luca. Aspetta, chi era l'altro? Ah, ne ho più lui. Ah, c'era anche lui in rotta, non me ne ero accorto. Io ho sentito nel momento in cui sono passato solo Antonello e Antonio Bombolo che stavano facendo botta risposta. Va bene, un saluto anche a lui, ciao a tutti. Ciao Marco, ciao. Ciao Marco, ciao, ci sentiamo. Oh, io. Cosa ti mangi in bocci, capre? Ah? Ui ui, ciao, stavo usando un cacciavite cercassato ieri, come ho girato la vite e mi è rimasto in mano. Grazie Roma Gabriele. È quel pacco famoso che mi era arrivato, capito? Due cacciaviti gialli, il cacciavite cercassato. L'ho usato ieri mattina, alla girare la vite si è aperto in due proprio, capito? Gli altri due cacciavite gialli, quelli già funzionano ancora. C'ho la valigetta qui, se mi ricordo, cazzo, dei soldi che ci ho speso, 129 euro, ragazzi, lampati. Cosa vuoi? Mamma mia, che benzino, ragazzi. Un pacco ti è arrivato, Un pacco di tette per l'attesa, perché avevo richiesto un apparecchio elettrico, bello era, 129 euro da cosa, la marketplace, invece mi è arrivato una valigetta con due cacciavite gialli, un cacciavite cercassato, una taglierina e un rotolino affesolante e un metro. E non l'hai segnalato? Eh? Non l'hai segnalato? Ho segnalato, sono andato alla fine, ho fatto la denuncia e basta, ma non, mi ha detto che non avevo piedi, mi ha detto che... E lui dice che vai avanti, se non avessero chiamato dice lascia perdere, che ce ne metti il doppio di, con l'avvocato. E così la fanno sempre a fracche di qui. Me l'ha messo in culo solo a me, no? Ha creato la gente, c'erano 500 persone che hanno scritto, capito, le recensioni, uno che era una ditta che ha detto fattrice, cosa del genere, io non ci ho neanche ballato la verità, perché non sono abituato a comprare su marketplace, e infatti non ho più ordinato un cazzo, niente, quando prendo la roba, do il soldi a Giovanna e lei già lo sai siti dove poter ordinare, o Amazon o l'altro, almeno so che la roba mi arriva, la roba giusta. Sì, c'è, anche io faccio così, tutto l'Amazon sto comprando, tutto, pomate, tutto quello che mi serve. Ho comprato l'altro meglio da Leader l'altro giorno, una sacchetta che ci sono cacciaviti, tutto, ma bella, un martellino, quello mi serve quando devo lavorare con Rockhaus, perché il martellino mi serve per il lager, quando devo aprire per concentrare il lager. C'è di tutto, livella, di tutto, ma bello, 19 euro. No, io adesso, in questi giorni devo andare lì a fianco a Bicco, come hanno aperto quel negozio di cinesi, lì c'è quell'apparecchietto che misura la pressione, 14 euro, e me lo devo prendere, capito? Così ce l'ho a casa e controllo la pressione a Simona, capito? Perché l'altro ce l'ho, quello che si fila nel dito ce l'ho. Ma che sono l'apparecchietto, la pressione e basta. Mi piglio quello, per 14 euro va benissimo. Ci metto le batterie e c'è tutto dentro questo. Me lo prendo e così sono a posto. Poi se mi serve qualcos'altro adesso vedremo un po'. Io l'altro giorno mi sono preso una borsa dell'acqua calda, questo giorno lì proprio con le versioni che stai dicendo tu, lì. 4 era in offerta, 4,90 euro. E me lo metto su più di uno e me li fa passare, capito? Quando è calda me lo metto sopra. Ah, ho capito. Allora mi hanno regalato invece il coso, una coperta Imet, che è una matrimoniale e una singola, e funzionava. Dove sto facendo questi lavori. C'erano la roba, ce la stanno buttando, capito? E poi c'erano due cose ieri, mi sembravano una specie di trapano, invece sai cos'era? Quell'aggeggio che ti tira fuori aria calda, umida, per stirarti le camicie c'era. Ce ne erano due buttate fuori. Allora mi ha chiesto, ce li vuoi? No, non me lo faccio niente, gli ho detto, di questi. Io non devo stirare nessuna camicia, gli ho detto. E io... No, mi sono preso quella borsa, sembrava una cazzata, invece la scaldi, ma non c'è il calore quanto lo tiene, c'è un liquido dentro, deve essere che è un liquido che mantiene il calore. Sì, lo so che c'è il liquido dentro, l'avevo preso dai cinesi una volta io, lo metti in pratica, c'è l'alimentatorino, una volta che l'acqua è calda, scatta subito, come si chiama, è pronto per poterlo utilizzare, dura tutta la notte, ti dura. Sì, poi l'ho messo in diverse parti che mi fanno male. E non posso risolverlo, prima voleva venire il furto, cazzo. Infatti, non ho visto il furto fatto, la verità. Adesso devo controllare se c'è altro che non mi serve a questa qui, che magari a me mi serve, me lo faccio regalare. Ma c'è una roba di marca, capito? Non è come me che vado dai cinesi a comprare le scarpe, no, loro vanno proprio nei negozi. Ci hanno buttato le scarpe da tennis nuove, mi costavano almeno 120 euro l'una, cioè il paio, non l'una. No, non ho voluto neanche una, perché erano 40, 43, quella misura non ce l'ho, io ho 39 e Simona c'ha 37, figurati. E le vendevi sul marketplace? Ma che prende tabella? No, guarda che a perdere. Non ne voglio dare a capire a nessuno qua a casa. Oppure le pedille non saranno, non spediscono niente a nessuno qui. Proverità. L'unica cosa bella che mi ha detto c'era voi questo televisore, ho detto, me lo dia. E c'era anche il ricevitore, c'era. Curiosità, ho detto, che strano, ho detto che gli abbiano messo il ricevitore, eppure questo è uno spazio di fumo, c'è scritto dietro. Stacco il ricevitore e si vedeva benissimo il televisore. Allora il ricevitore ho preso e dell'Apple System me l'ho conservato dentro una scatola, avevo un nuovo con l'attacco HMD e poi c'era anche la presa scatola. Adesso il TV devo cercare di appenderlo uno di questi giorni, perché pesa un pochettino, è un 40 pollici ma pesa, è un bel largo, capito? La staffa me l'ha regalata, la staffa la lanciare al muro, se bisogna che busco i tasselli giusti, perché se li metto tasselli di plastica succede come quello di Giampiero, il televisore che gli ho messo i tasselli quelli pacificati con la vite e la rondella, dopo due giorni è riuscito da solo, perché c'è quel tipo di foratina che abbiamo noi da 6 nel muro e come vai a finire ti si spacca dentro, capito? Si allarga e quindi ci vuole tasso l'adatto. Scusa, tasselli chimici, non sbaglio. Infatti voglio fare così, per pigliarmi lo sicuro. Piglio il tassello chimico, glielo sputo dentro, aspetto che asciughi e poi prendo, li metto i bulloncini e poi ci appendo la TV. Infatti, è l'unica. Perché tu con il peso magari piano piano se lo butta fuori. Infatti già Giampiero è capitato così, piano piano gli aveva buttato fuori, infatti devo adesso metterci il tassello chimico di lì, in questo lì, glielo riempio bene con la vettina e poi ci metto aspetto che asciughi e dopodiché gli metto il bullone e ripiazzo nuovo la staffa. Santo! Invece qua all'epoca papà ha fatto un lavoro per mettere la tela della TV, ha fatto passare le tre file da parte in parte e quando mai li fare chissà cosa. Con la tua fila sì, da parte in parte è una cosa buona. Sono stato fortunato, la verità, quando ci ho messo l'antenna della WHF ho trovato il cemento armato, quindi ho fatto il foro, ci ho messo il tassello, ho stretto, non si muove per niente la staffa, grazie a Dio. E gli ho lasciato così, invece la manto va agganciata alla staffa della parabola con due gaffette di quelle per la staffa ringhiera. Ciao, ma anche qua è stato fatto un bel lavoro, via di batturati che sono, non riconosce quel vento a palla, non l'ha fatto tutta, ci sono anche i tiranti, tutto. No, ci sono vicinati, avevo messo io per sicurezza, ho lanciato il palo per essere più tranquillo, capito? Quando c'era la mano, oscillava, mi ha piegato leggermente il palo dell'acqua, figurati. Ed è fuori, saliva lì due metri, un metro in pratica, rimaneva nella parete, capito? Tanto mi ha piegato lo stesso con la mano, perché la mano faceva forza, capito? E mi ha piegato lo stesso, ma questa zona è ventosa, te lo sai anche tu, è peggio di Venizidio, forse gli dica cosa, non so quanti pali mi ha piegato lì. L'unica cosa di buona che aveva fatto era quando mi ha installato i treppiedi fancillo, col cavo è durato più di 17 anni, col cavo si è mosso. Come vuoi, è un marrumore. Ma sei ancora bello, non ho tenuta. Mi ha detto che c'era via di sedere, è totalmente diverso dal tetto che c'è qui. Qui il tetto è a forattino, a pignata. Quindi la pignata tende a aprirsi. Il discorso è quello. Quando ho fatto il buco qua dentro la camera, ci ho messo il tassello per metterci la lampada, quella larga. Ma mi sembra che tenga. Lì la mattina ha cominciato piano piano a scendere, ma la mano dopo mi sembra che stia scendendo la stanza. Quanto vuoi? Ma la mano l'ho presa in mano, ho smollato appena appena scesa la lampada con la stanza completa. Ho messo la luce a me per poter fare i lavori, capito? Infatti mi è rimasto un buco, adesso lo devo tappare con cemento, metto un po' di cemento bianco, lo tappo e poi tingo. Allora, quello che ha attaccato io, come si dice, è attaccato a colpi di... cioè proprio le staffe erano di quelle micidiali, erano, come si dice, grosse, cioè... Io non penso che li bozzi a nulla, no, roba seria, e ce ne sono due, una volta all'altra poi ci sono i tiranti, sono di quelle molto molto robuste che non le spaccherai mai. Io avevo pensato la parabola a Giampiero quando ho bucato il muro esterno, ho messo la staffa pipetta nel carrazzo, ho avuto metterci quei tassini grossi, cazzo, sarà stata la 14 o la 16, ho matto all'interno e poi ci infilavo in questa vite, che era più di 4 cm di lunghezza, non si è mai mossa la staffa del coso, meno male. La pipetta, poi quando hanno voluto che il Giampiero staccasse la parabola, ci ho messo un po' di cemento all'interno e poi hanno tappato il tinto. Sai che era una punta da 16 quel volume, cioè ci ho messo, ma è che non mi rilassi. Non le butti giù, no, figurati. No, questa staffa del televisore ci puoi mettere i muroni da 10, le staffette che sono quelle da 10 oppure da 13, ma di più no, non tiene un tubo. Questi muri qua sono muri da 6, capito? Sono forati da 6 e non servono un cazzo. Se fosse stato a blocchetto sarebbe stata una cosa diversa. No. Avanti già. Che sono fatte? Beh, sono le 18:49 sono. E io è presto ancora. Oh, perché poi devo portare il cane giù? Vado a giocare, oggi sono... mi sono addormentato dopo un pranzo. Vabbè, ero stanco perché c'erano loro tutti quanti a pranzo. E poi dopo pranzo, che dopo che ho finito di fare tutto, mi sono bucato, sono dormito sino a tanto. E io non vedo, sei stanco. Ti succede così. E invece mi fa male il coso, il collo, perché ieri ho preso freddo, ieri mattina, ho sudato facendo quel lavoro per togliere fuori tutta quella roba lì, il legno. E poi pesava a casa quella roba in legno, a casa, ho detto. Ho fatto un affratto, ho fatto. E quindi come a volte come piego il collo mi va male, in un fianco. Non sai qual è la ginnastica per farti passare il dolore al collo, quale? Con il braccio destro lo alzi sino arriva dalla testa e poi giri il collo dalla parte sinistra, al contrario. E così fai con l'altra parte. Sì, una volta non riuscivo neanche a muoverlo, te lo ricordi? Che non riuscivo neanche a sollevare manco una busta. Adesso piano piano sto recuperando le forze in quel braccio. La forza di fare qualche lavoretto, capito? Sforzo quel braccio libero da rimettere a posto il muscolo. Perché come me l'ho fatto quella iniezione per il Covid. Cazzo, ma che l'ho fatto, ma... Adesso già avevo visto che c'era un'altra epidemia in Cina, quindi ci dobbiamo preparare. C'è poca gente in ospedale di là. Tutto mio, dice che speriamo che fanno in Natale i cinesi in Cina non vadano lì come se ci stava la prima volta, che sono arrivati tutti col Covid intorno. Io da quando ho fatto il vaccino sono tutta dolore alla gamba, al braccio, dolori, non ne posso più alla schiena, mai avuto dolori così. Tu immaginati che avevi molto male a sollevare i pesi, mi devo proprio abituare perché il muscolo era proprio è come se che non facesse più niente, capito? E quindi piano piano sto cercando con questi lavori qui di fare qualche lavoro pesante. L'altra volta ho fatto un lavoro di muratura, sono stato 4 giorni, mi facevo male il braccio, la gamba, non riuscivo a muovere i muscoli. Antone, neanche più c'è più l'età di fare questi lavori pesanti. E ho dovuto prendere una massa da 30 kg per togliere una fila di quattro blocchetti. Sotto a 4 blocchetti sotto, quindi 8 blocchetti in tutto era. Immaginati che il cancellatore si è sciasciato da solo, non gli faceva manco i soldetti col cancellatore a questo tipo di blocchetti, belli stagionati erano. Aspetta, alcuni pesanti lo sai devono fare lì, ma si vede che... Ecco, ci devo scrivere, capito? Anche le gambe un po', figurati. Infatti quando vado in casa degli altri mi mantengo, come si chiama, la tengo nella scala. Dove sto facendo il lavoro invece il corrimano non ce n'è, hai capito? Quando prendo i televisori pesanti e cose del genere, c'è una paura nata perché ha fatto queste scale nere, insomma. Già non si vede quasi nulla perché ci ha messo a tendere dentro questa casa e il sole non entra, non ti accorgi quando del gradino, capito? Ehi, avanti, allora. Ma non sa cosa parliamo, Gabri? Non sa cosa, non so cosa, sono indeciso, ma cosa capo, se fare? Una passata da consumo, ordinare una pizza. La pizza, per carità, l'ho mangiata ieri e dopo mezz'ora sono andato in bagno a diarrea, sono andato quelli di Ruspin, quelle rettangolari. Il formaggio evidentemente non era buono, mi ricordo che era un cavolo, dopo 10 minuti nemmeno che l'ho mangiato, sono partito in bagno, ma ormai non sono andato in nessun posto a fare nessun lavoro, se no dovrei aver fatto la frittata. Cazzo, con le pizzerie che c'abbiamo, ma devo spirare a comprare la pizza che non si è nulla. Me la faccio io da fornetto, anche se costa 4 euro, ma me la faccio da fornetto io, capito? No, so che qui è pieno di pizzerie, cioè sono, c'è la pizzeria, lo scacchiere, poi c'è Oggiano, poi c'è Oggiano vive, quello di Venevanta, che è già la Farbona, ce ne sono pizzerie qua vicino, è pieno. Ma perché Oggiano, se vuoi viene l'altro, c'è, oh, perché prima c'era Vegasare e da quello si è trasferito il figlio? Qui a Catalottino, ma Oggiano già non proprio, quello delle figlie, e poi le fangenero le pizze, loro sono morti. Tutti e due morti, sono anche la madre e quella che voglio che sto. Sì. Allora ci sarà Tiziano. Le figlie, e poi a Carbonazzi c'è l'altro figlio. E poi c'è il figlio di cosa, di quello che ce l'aveva la ragazza di Renda. Cioè anche, con lui mi madre mi dà dei monti. C'è anche il giorno pasticcere, già lo sai, lì a Carbonazzi. C'erano anche la pasticceria. Stella c'è. Quelle due ragazze che si assomigliano, quelle sono via Catalottino, quelle che stai dicendo tu, Gianni. Ah, si è trasferito. No, a Carbonazzi c'è l'altro, c'è il figlio, c'è. Un attimo di bianco che sono al telefono. Io. Sono rilando la pizza altura. Sì, vabbè, almeno gliela portano a casa, è più tranquillo, no? Io faccio neanche 100 metri, da qua al Conti, c'era la pizzeria, lo scacchiere, vado via a piedi, in 3-4 minuti, massimo 5 minuti, me l'ha già preparata, vado lì, me la ritiro, capito? Che io faccio prima, esco dal portone e c'è la pizzeria a fianco. Esatto, sì. Avete avuto lo spincazzo qui a posto di questo locale notturno che hanno fatto. Sono riuscito a portare in casa direttamente e invece devo farmi tutta la salita. Che locale notturno hanno fatto lì? Un locale apre venerdì, sabato e domenica. Adesso è aperto. Stanno un locale notturno, rimane aperto fino alle 2 o alle 3 del mattino. Ma a livello di karaoke, roba del genere, oppure ci sono le donnine? Oh, c'è musica, c'è. Penso che sia karaoke facciano, non lo so. Io li ascolto col portatile quando ci sono le persone che vanno lì e ordinano, capito? Un ordine al tavolo 20, un altro al tavolo 10, capito? La prima volta sono entrato e ho detto un cheeseburger al tavolo 15 e lui ha detto, ha risposto, ma noi cheeseburger non ne facciamo, chi è che l'ha ordinato? Ma cosa usano gli occhi per il PMR usano? Ah, ho capito. Se fossi sicuro che si carta, vorrei andare a vederlo come locale. Che è bello come locale, sono andato io. L'unica cosa che costa un bene, va bene. Io una 0,20 l'ho pagata a 3,50 e si mangia tutto. Si mangiano patatine, ho visto, panini, poi non so se facciano altre cose, la verità, perché non ho questo, solamente sono andato all'ingresso a vedere se quanto, una spina, 3,50 mi ha sparato, ho guardato il continuo dopo, 3,50, ci metto più piede, manco volta. Ma da lui spetti compri la birra con la verde. Allora, via, carità. Dice che lì c'era tutto a 1,50 nello spin. Sì, no, c'è tutto a 1 euro adesso, 1,50, già ce l'ho il ricordo dello spin, ce l'ho qua a casa. Ma le cose che valgono poco costano 1 euro, se non mi dà tutto non vai 1 euro. Ma io vado in via Verona però, costa di meno la roba. È molto più malleabile via Verona. Quindi si risparmia di più. E come ci va a piedi? La 7 mi ferma direttamente proprio di fronte allo spin. Poi ritorno, prendo la 7 e ritorno qua a casa. perché adesso è cambiato tutto. C'è la 7 di polizia e la 7 di via da basso. Ma tu non ti avevi preso una moto, che fine ha fatto? Ce l'ho con lo scooter, ma c'è il problema della centralina e sto cercando se è stato a parlare con gli accatti. Una uguale, capito? Se fa la ciappalla. Ma la centralina c'è uno che le guarda a Sassari e le ripristina. Sì, ma questa è centralina del frontale della velocità, tutto di sé, capito? C'è, ed è tutto stirato. Figurate che non sono riuscito a staccare lo stagno io, proprio esattamente stirato, che per carità, è rimasto sempre fuori, capito? Adesso devo vedere un pochettino di se sto a San Camillo di trovarne una uguale, me la prendo e me la porto a casa. Vabbè. E quanto l'hai pagata quella moto? 150 euro ho pagata, poi le batterie me le hanno regalate, l'amico mio l'ha pagata 170 euro l'una. Non è il problema di batterie solo. Poi te l'ha fatto dopo quel lavoro lì. Quando l'ho presa le batterie erano scariche. Allora ho chiesto a un amico se sapeva dove vendevano, che me le ha ordinate e sono costate così. Poi gli ho detto quanto devo dare? E ho detto non devi dare niente, te la regalo io, mi ha detto. Quindi. E le batterie ce le ho in corso, in garage, insomma. Io ho staccato le batterie per sicurezza, non sia che qualcuno si porta via con lo scooter, costano più le batterie con lo scooter. Vabbè, è stato scalognato, non ha funzionato la centralina. No, già ha funzionato, l'avevo usato 6 mesi, che non cosa del genere. A parte la stampata che ho preso un giorno, cazzo, perché mi sono messo mi sembravano sgonfie le gomme, cazzo, preso le ho gonfiate a due, sono andato via Verona, mi sono fatto la spesa, come ho fatto la curva in via Catalocchino, ho preso un avvallamento piccolino, mi sono capottato io la moto, e lo scooter, si è fermato uno dietro, dice, gli posso dare la mano, ho detto se mi solleva, gli ho detto mi fa un piacere. Vabbè. Ma di quale scooter era? Di quelli a due ruote? Quattro ruote c'ha questo. Ma di quelli per i vari? Quello per disabili. C'ha quella sedia che ti può appoggiare le braccia. Ho capito. Ma probabilmente se sai dove l'hanno comprato, magari si trova al pezzo. Ho guardato in televisione, scooterando non c'era riversa, lo scooter è simile, ma però la centralina è riversa, l'ho guardata, quindi devo andare per forza d'accordo, lì perché dove c'è il centro psichiatrico lì a San Camillo, sotto ci sono tutti gli scooter, me l'ha detto il dottore, Antonio Parenti me l'ha detto che fa il vigilante lì, capito? Lui ha visto dove ci sono gli scooter, dice dottore vai lì, c'è fare la domanda, mi ha detto, e poi sono andato a controllare, siccome c'è la 104, ci vuole anche la 162, e quindi la 162 non ce l'ho e mi sono attaccato a poppa. Vabbè. Magari ne hanno tanti fermi che hanno i pezzi uguali, e non li usano, stanno le frantichenne. Io gli avevo preso il letto per mio padre quando non poteva muoversi e cose, gli avevo preso il letto lì. C'hanno tutto, bisogna fare la domanda avendo la 162 e la 104 trovando subito, te lo portavo anche a casa. Ma avevo avuto la 162, siccome c'è l'articolo 3,1 della 104, Nicchi sì. L'unica cosa è chiedere all'associazione che c'è che porta i disabili, che quelli ce l'hanno qualche scooter, capito, che non, che usano e che regalano. E magari ti regalano lo scooter intero, se ti raffi da cuzzare, se te lo regalo all'interno ti cose per le batterie, non ti sembra non ce le hai. Sì, adesso non gliene parlo a quello della sorgente, che già lo conosco. La prima volta gli ho detto il giorno che c'era la Madonna di Rateroce, gliel'ho chiesto, c'era anche mia zia, c'era. Dice, vabbè, dice, mi sembra che uno lo può cercarlo, ti faccio sapere. Allora gli ho detto, gli ho dato il numero del telefono, così a voce, però non se l'ha segnato. Poi gli ho detto, al limite, ho detto, telefono a mio fratello, poi mio fratello ha detto, avvisa a me, vengo, me lo ritiro. Non c'è problema, è stato il numero di mio fratello, ce l'ha. E invece non mi ha mai chiamato. Ma probabilmente non ne hanno. Anche noi davamo le carrozzine e chi ne aveva bisogno. Vabbè, la sede della sorgente è stata lì nel cuvone per andare via Bottegogna, che non so dove. Bisogna che qualche giorno ci passo, quando vado da Cristian Magna, passo lì, mi fermo 5 minuti e se c'è quello là glielo chiedo, se c'è qualche scooter che non se ne fa nulla, me lo dico, guarda, passo domani, me lo chiamo una motocicletta, me lo porto via, poi già mi arrangio io, aggiustarmelo. Dai, io ti saluto, vai, che devo portare giù il cane, salutami anche Antonio se non c'è, tanto io saluto anche a te, dai, se mi stai ascoltando, dai, faccio il corretti, buona continuazione, ciao ragazzi, statevi bene. Ciao Gianni, ci sentiamo, stavi bene, buona passeggiata, buon tutto. Antonio dice che ha girato la pizza e quindi fa poco magna. Ciao a tutti, dai, devo lasciare, sono al telefono, ciao.